sono ancora i due fronti di tensione internazionale a dominare la scena. Da una parte quello libico, l'idea di una tregua che viene rigettata dal generale Haftar, che muove su misurata, forse una mossa, consentiteci l'espressione brutale, per trattare sul prezzo, mentre l'Italia prova a recuperare terreno con una missione di Conte che lo porterà tra l'altro in Turchia. L'altro fronte di tensione è quello tra Iran e Stati Uniti, con la Camera americana che da una parte che limita i poteri del presidente in caso di decisione di attacco e il premier canadese dall'altra che conferma l'ipotesi secondo la quale l'aereo ucraino precipitato a Teheran sarebbe stato abbattuto da un missile iraniano. L'Italia, la maggioranza dibatte sulla prescrizione, i 5 Stelle si dividono sulla leadership, si attende il voto in Emilia-Romagna, insomma, solita roba. Nel frattempo sulle martoriate autostrade italiane piove un altro problema. Un rapporto del Ministero delle Infrastrutture segnala che ci sono 200 gallerie che vanno adeguate alle normative europee. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Le 6:31 minuti e 54 secondi di questo venerdì 10 gennaio. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, bentornati. Vi aspetto, Scrivete al 349-238-6666, SMS, messaggi su WhatsApp e mandate la vostra voce, i vostri messaggi audio. Fatevi sentire. Siamo in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, come sempre, pagina Facebook che vi consiglio di non solamente di visitare, andate con il vostro ditino, cliccate mi piace, così poi vi arriva anche la segnalazione del nostro appuntamento fisso del venerdì, oltre che delle dirette, di tutto il materiale che mettiamo, anche del nostro appuntamento fisso del venerdì, fuori rassegna che arriva oggi pomeriggio. Abbiamo l'account Instagram, quello Twitter, lo sapete, e poi l'email 24mattino@radio24.it. Carmelo Lauricelli, regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, come sempre o quasi sempre. Da cosa partiamo? Partiamo dalla Libia, dopo... insomma, quella giornata che non è andata particolarmente bene per il Presidente del Consiglio e per il Governo, la gaffe, l'invito ai due leader libici, arriva prima Haftar e Sarraj dice vabbè, sai che c'è? Non vengo. Di Maio dice siamo in prima linea per la soluzione. La Libia sembra un tema lontano per l'Italia, ma in realtà è una questione importantissima di sicurezza nazionale. Abbiamo un rischio di cellule terroristiche a poche centinaia di chilometri dai nostri confini. Ed è per questo che l'Italia è in prima linea per favorire una soluzione diplomatica al conflitto che è in corso. In queste ore sono stato a Bruxelles, a Istanbul, al Cairo e adesso ad Algeri per rientrare a Roma e coordinarci con il Presidente del Consiglio e con gli altri ministri e spingere la comunità internazionale ad un cessate il fuoco. Devo dire la verità, l'impressione che tutti questi viaggi, questi contatti diplomatici, non solo i viaggi di Di Maio, ma anche questa missione attrezzata molto rapidamente dal Presidente del Consiglio che inizierà lunedì, dovrebbe incontrare Erdogan. Sta provando ad attrezzare anche una parte di visita in Egitto. L'Egitto è un altro grande sponsor del generale Haftar. L'idea di provare a porsi come mediatori dà l'idea comunque di una manovra pensata un po' nelle ultime ore, alla luce di qualche insuccesso, di qualcosa che non ha funzionato. Silvia Sciorilli Borrelli di Politico Europe, ciao Silvia, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Simone. Hai anche tu questa impressione? Ma sì, arriviamo un po' in ritardo, non è soltanto l'Italia, credo sia tutta l'Europa, ormai ci sono la Russia e la Turchia che la fanno da padroni, l'Italia in particolare negli ultimi anni non soltanto durante il governo giallo-rosso, quindi non soltanto da quando Di Maio è alla Farnesina, la questione Libia l'avevano lasciata un po' in secondo piano rispetto ad altri problemi, e adesso sicuramente i risultati si vedono, perché al di là di quello che poi dice Di Maio o che prova a fare Conte, io credo che sia i partner europei che gli attori sul campo in Libia, quindi al-Sarraj e Haftar, non vedano l'Italia come il punto di riferimento, e anche se noi ci offriamo come mediatori e diciamo che riusciremo a trovare una soluzione e a ottenere un cessate il fuoco, la gaffe di 2 giorni fa sicuramente non aiuta neanche a Bruxelles. È vero che Di Maio c'è andato, ma diciamo si è inserito all'ultimo, adesso l'interlocuzione soprattutto tra Francia, Germania e Gran Bretagna, e ovviamente in ogni caso l'Europa e anche la Francia, la Germania e la Gran Bretagna non hanno questo potere di trovare la svolta, perché hanno preso il sopravvento la Russia e la Turchia, quindi purtroppo questa è una delle tante situazioni in cui l'Europa purtroppo conta meno. Sì, tra l'altro a testimonianza di questa situazione racconta oggi Avvenire, siamo a pagina 7, un pezzo di Vincenzo Spagnolo, insomma, dice che nelle scorse ore il ministro dell'interno libico Fatih Bishaga è arrivato ieri a Roma, e non è nemmeno chiaro se abbia incontrato qualcuno del nostro governo o si sia consultato solamente con l'ambasciatore americano a Tunisi Donald Blum, che evidentemente era in zona. Forse ha avuto un colloquio col premier italiano, ma insomma non è chiaro. È evidente che un filo di tensione permane. Così parla Salvini su Conte. Sentiamo. Però la cosa preoccupante è che mentre avvisano e concordano con Parigi, Londra e Berlino, a Roma nessuno telefona. Perché poi c'è anche un fenomeno: il Presidente del Consiglio è che a Roma, per portare pace in Libia, prima parla con quello che bombarda e poi viene ignorato da quello che è bombardato. Quindi veramente è l'ABC, ma neanche un bambino dell'asilo avrebbe fatto un errore del genere. Oh, posto che l'errore c'è, beh, insomma, diciamolo anche dall'altra parte, che noi Salvini ce l'abbiamo avuto ospite martedì e per 3 volte gli abbiamo chiesto che cosa avrebbe fatto in questa situazione. La risposta è: avrei dialogato con al-Sarraj. Però, insomma, oltre a questo, a me pare, Silvia, che insomma, che chiunque sia in carica in questo momento, e non è una giustificazione alla gaffe del governo, per carità, però dico, chiunque sia in carica in questo momento possa avere una qualche difficoltà, perché gli attori in campo sono altri, parliamoci chiaro. Gli attori in campo sono altri, Salvini ovviamente adesso dall'opposizione ha un ruolo diverso e credo che cerchi anche di accreditarsi come leader responsabile e affidabile agli occhi dei partner europei e non solo, e quindi ovviamente noti una cosa del genere e la dica mettendo Conte in cattiva luce, come ha spesso fatto negli ultimi mesi. Sicuramente però quando era lui al governo e quando si è focalizzato moltissimo sull'immigrazione non è che si è preoccupato più di tanto della situazione in Libia. Sicuramente per risolvere la situazione dell'immigrazione in Italia bisogna risolvere la crisi libica, altrimenti sicuramente non si trova una soluzione di lungo termine. Non mi sembra che Salvini aveva agito più di tanto. Sicuramente sono tanti gli attori sul campo, ma sicuramente il fatto che l'Italia abbia dei governi deboli, che sia ormai inesistente in politica estera e che continui a cambiare governo una volta all'anno non aiuta neanche la nostra disposizione. E chissà quanto durerà questo esecutivo, certamente molto legato, l'abbiamo detto, al voto in Emilia Romagna ovviamente, ed è legato a tutta una serie di dossier. Ieri l'ennesimo inconcludente vertice sulla prescrizione, un clima cordiale, dice il ministro Bonafede. Su questa proposta e all'interno di questa proposta faremo tutte le nostre valutazioni, però il clima è stato estremamente costruttivo e abbiamo tutti l'obiettivo di portare la riforma del processo penale in tempi brevi in Consiglio dei Ministri, in modo tale finalmente da sbloccare una delle riforme a cui tengono i cittadini. Clima cordiale, ma mi pare che non se ne esca, anche se Verini del PD parla di significative aperture, qualsiasi cosa voglia dire. Sul tema della prescrizione abbiamo registrato dopo il confronto che c'è stato su questo tema nel corso della riunione, un significativo abbandono di rigidità, perché si è acceduto all'idea di inserire nel disegno di legge penale a cui abbiamo fatto riferimento anche delle norme che possano, all'interno della legge vigente sulla prescrizione, differenziare alcune posizioni. E poi viene depositata la proposta di legge sulla legge elettorale, il tedeschellum o il germanicum. Ma perché? Ma perché? Ma perché dobbiamo usare l'um a tutti i costi? Perché il latino? O il presunto latino, o il finto latino, come in questo caso. Lasciamo perdere, ve la risparmio, perché tanto le discussioni saranno infinite su questa storia, non ci capiremo poco o nulla, e tutto è collegato ovviamente a quella questione del taglio dei parlamentari, perché la legge elettorale la devi tarare anche su quanti parlamentari hai, come ovvio che sia. Dovevano essere presentate ieri le firme per il referendum per bloccare il taglio dei parlamentari, il referendum confermativo della riforma costituzionale, però sono venute a mancare delle firme, ma com'è? Anche di Forza Italia, si stupisce il portavoce di tutta l'iniziativa, il forzista Cangini, sentiamolo. L'appuntamento è slittato perché alcuni senatori hanno chiesto di ritirare le firme che avevano apposto la richiesta di referendum, altri stanno chiedendo di aggiungere le proprie, quindi per rispettare la volontà e l'interesse di tutti, sia quelli che hanno avuto dei ripensamenti in positivo, sia quelli che li hanno avuti in negativo, abbiamo riaperto i termini. A maggior ragione ora, finché non vedo le firme, non mi sbilancio. Nessuno si è ancora aggiunto, ma nessuno si è ancora neanche ritirato, se per questo. Hanno chiesto formalmente di ritirare le firme. E altri mi stanno chiamando chiedendo di aggiungere. Mamma mia. Mi pare Silvia discretamente confusa la situazione. Sì, abbastanza. Poi continuiamo a dire che il referendum è l'incentivo al voto anticipato, ma a me sembra che gli incentivi se ne stanno autoprocurando a dozzine, quindi insomma vediamo come andrà, ma di dossier ce ne sono. Ce ne sono parecchi. Ecco, un altro dossier aperto. Oggi il Fatto Quotidiano apre scrivendo che Luigi Di Maio potrebbe lasciare la guida del Movimento 5 Stelle addirittura prima delle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Nel frattempo le tensioni aumentano all'interno appunto del movimento. Sentiamo l'ex ministro Fioramonti. Dopo queste dimissioni sono stato coperto di fango da parte di colleghi di partito, quando avevo fatto quello che tutti sapevano. Era una battaglia in cui credevano anche molti altri parlamentari. Non capivo il perché. Non le posso nascondere ovviamente che lo sta vedendo anche in questi giorni. Da almeno un anno io ed altri combattevamo nel Movimento 5 Stelle per fare in modo che questo movimento diventasse più trasparente, più democratico, più partecipato, come tanti movimenti politici. Quindi è poco trasparente, ancora... poco democratico e poco partecipato, è troppo verticistico. È questo, sì, ma punto. Questo non è una novità, Fioramonti l'ha scritto in articoli per tutto il 2019. Però quando lei parla... Caro Davide, buongiorno, che ci scrive: come siete sempre critici su tutto, cari giornalisti. E che le devo dire, Davide? Che dovremmo dire che il 2020 sarà un anno bellissimo? È il nostro compito, amico mio. È quello che dobbiamo fare. C'è in ballo anche la questione autostrade, sono circolate queste voci sulla ipotesi del Partito Democratico che avrebbe proposto una maxi multa al posto della revoca della concessione, ipotesi smentita dal ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli con queste parole. Non abbiamo mai valutato, né privatamente né pubblicamente, l'ipotesi di una maximulta. Nei prossimi giorni il governo assumerà i provvedimenti conseguenti nella sua piena collegialità. Buffagni dei 5 Stelle, non barattiamo 43 morti con una maximulta. Al contempo sono contento che rispetto a questa notizia folle della maxi multa d'autostrade anche i ministri De Micheli in particolare sia uscita smentendola, anche mi pare Zingaretti mi hanno detto il movimento non baratta 43 morti per una multa. Traffico. Mattino. Oh, un ascoltatore ci dice che siamo assurdi perché la colpa è sempre di Salvini. E un altro ci chiede se ci sono sempre le bandiere della Lega in redazione. Quindi perfetto, abbiamo fatto il nostro mestiere. Mi pare. Cosa abbiamo ancora? L'altro fronte di tensione internazionale, no? Ce l'abbiamo, la voce di Justin Trudeau, Carmelo Lauricella, sentiamola, va. We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile. Allora, Trudeau che conferma le ipotesi circolate nelle scorse ore, poi naturalmente ci sarà un'inchiesta che dovrà chiarire tutto, le ipotesi secondo le quali l'aereo ucraino che l'altro ieri, nel giorno del bombardamento sulle basi americane, è caduto all'aeroporto di Teheran, sarebbe stato abbattuto, probabilmente per errore ovviamente, da un missile terra-aria iraniano. Perché ne parla Justin Trudeau? Perché è il più alto numero di vittime dopo quelle iraniane è esattamente canadese. 63 persone, 63 canadesi hanno perso la vita in quel volo. Dunque, cosa abbiamo ancora? La questione della Gregoretti, va, facciamolo un accenno, visto che di Salvini mi parlavate, si è deciso di rinviare il voto, si sta chiedendo, la maggioranza chiede di rinviare il voto sul caso della nave militare bloccata appunto dall'allora ministro dell'interno, e Salvini accusa, sono un orgoglioso difensore dei confini, e di fatto dice siete dei codardi a non portarmi a processo, sentiamolo. Io sono orgoglioso di aver difeso i confini, la sicurezza, l'onore e la dignità del mio paese, perché in Italia si entra se si ha il permesso. Posto che ovviamente la Gregoretti era una nave militare, insomma, ecco, così mi massacrate, i salviniani all'ascolto mi massacreranno di nuovo, e quindi insomma, un po' la difesa dei confini da una nave militare è curioso. Va bene. Vogliamo accendere i riflettori su qualcosa che avviene oggi, la manifestazione contro la criminalità organizzata a Foggia, organizzata da Libera. E perché vogliamo accendere i riflettori su questa manifestazione? Perché un po' abbiamo raccontato quello che è avvenuto negli scorsi giorni e nelle scorse settimane. In realtà è qualcosa che avviene da anni e avviene sempre. C'è una morsa, quanto forte cercheremo di capirlo, della criminalità organizzata su Foggia, in particolare sulla provincia di Foggia, della quale si parla pochissimo. È una criminalità organizzata presente da anni naturalmente, e che raramente sale all'onore delle cronache. E le cronache dei giorni scorsi ci parlano, tra le altre cose, di tutta una serie di ordigni fatti esplodere, probabilmente in funzione racket, in funzione richiesta del pizzo o rifiuto del pizzo, evidente, o rifiuto di pagamento del pizzo, esattamente a Foggia. Noi siamo in linea e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito con Francesco Giannella, procuratore aggiunto della DDA di Bari. Dottor Giannella, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Ci dà un'idea di che cos'è questa criminalità organizzata foggiana in linea di massima? Sì, aveva ragione nel dire che si tratta di un fenomeno che esiste da decenni ormai. Naturalmente pochi lo conoscono, non se ne è molto parlato nei decenni scorsi, purtroppo. Ora è all'attenzione di tutti. È una criminalità organizzata che unisce, come noi diciamo molto spesso negli incontri che facciamo anche per sensibilizzare l'opinione pubblica, che unisce tradizione e modernità. Una tradizione che mette le radici nella feroce, nel familismo su cui si basa questa criminalità, e nella modernità, dicevamo, per la sua capacità ormai consolidata di penetrare il tessuto economico e anche di assumere il controllo di alcune attività economiche. Ma il punto essenziale per capire questo tipo di organizzazioni criminali è il familismo, cioè i legami dei consociati sono fondati su legami di sangue, di familiari, non ci sono affiliazioni come accade in quasi tutte le altre organizzazioni criminali. La conseguenza di questa caratteristica è che si tratta di legami inscindibili, molto difficilmente scindibili. Si tratta quindi di organizzazioni che non hanno quasi mai collaboratori di giustizia, non c'è il fenomeno del pentitismo, o è molto molto raro. Ed è difficile per gli investigatori ricostruire l'organigramma delle organizzazioni perché non ci sono investiture formali, non ci sono battesimi e via dicendo, che consentono eventualmente poi di ricostruire proprio gli organigrammi societari. Questi sono le caratteristiche generali. Allora Gianella, c'è una pervasività territoriale da quel che abbiamo capito molto forte, che conduce anche a un sistema di racket molto forte sul quale mi par di capire i cittadini denunciano poco, si muovono poco. Io non so se per indifferenza o per paura. Allora, una premessa. Innanzitutto noi dobbiamo capire se restiamo i fatti di cronaca degli ultimi giorni, se sono tutti fatti riconducibili alla criminalità organizzata. Questo è un lavoro che stiamo facendo. Noi dobbiamo prima di tutto escludere che non si tratti anche di episodi che siano causati da altre dinamiche diverse. Una volta stabilito questo, è vero che non c'è molta collaborazione, diciamo abbastanza poca, e anche questo è un fatto storico, un po' giustificato dal fatto che per decenni lo Stato è stato, non dico assente, ma poco presente su quel territorio e che non, e la gente quindi non ha acquisito fiducia. Non ha acquisito fiducia nelle istituzioni. Ora però sarebbe proprio il caso che questa, che questa fiducia venisse fuori, perché sono anni ormai che la DDA di Bari e anche la Procura di Foggia hanno ottenuto grossi risultati sul piano giudiziario. Anzi, le voglio dire questo, in periodi in cui non ci sono bombe, non ci sono attentati, non vuol dire che non ci sono estorsioni, anzi, ci sono e ci sono. E sono così pervasive queste estorsioni che vengono fatte senza bisogno di minacciare nessuno, perché c'è una minaccia implicita che è l'estorsione, quindi quella che noi chiamiamo estorsione ambientale. Quando ci sono fenomeni violenti come quelli di questi giorni, è segno di debolezza delle organizzazioni criminali che hanno bisogno di riaffermare sul territorio la loro forza intimidatrice dopo le operazioni giudiziarie che hanno decapitato i vertici dei clan. Questo è importante capire, sì. Proprio perché la gente deve comprendere che proprio in questo momento deve avere più fiducia, è proprio questo il momento in cui bisogna alzare la voce. Allora la ringrazio, grazie a Francesco Giannella, procuratore aggiunto della DDA di Bari, per essere stato con noi oggi, lo ricordiamo, la manifestazione di Libera alle 16, appunto per cercare di riaccendere i riflettori su tutto questo. E ancora con noi Silvia Sciorilli Borrelli. Senti Silvia, che dobbiamo fare? So che sei stata del tempo, hai vissuto a Londra, la dobbiamo commentare ancora questa storia di Meghan e Harry, oppure francamente basta? Ma magari è più divertente di tante altre cose che commentiamo in continuazione e a ripetizione. Adesso stanno uscendo fuori, sui giornali sta uscendo fuori di tutto, allora è lei, per giustificare il fatto, no, che se ne parla, no? Lei e la sua lotta per l'indipendenza e soprattutto questa grande battaglia che si scatena soprattutto negli Stati Uniti e soprattutto dico nel Regno Unito, no? Sul tema, qualcuno scrive, dovete diseredarli, cioè dovete togliergli tutti i quattrini e devono veramente lavorare, no, là in Canada. E qua c'è addirittura qualcuno che si spinge a dire, beh ragazzi, potrebbero fare gli influencer, pensa Harry e Meghan a fare gli influencer come la Ferragni. Hanno registrato il marchio, no? E hanno voluto un account Instagram staccato da quello della Casa Reale, che è una cosa piuttosto inusuale, quindi c'è chi pensa che guadagneranno con la nuova fondazione, con questo marchio registrato Sussex Royal. Sicuramente in Gran Bretagna è una grande notizia, probabilmente non era mai successo e l'unica volta che si ricorda una cosa simile è negli anni 30 con il re, lo zio di Elisabetta, che per sposare Wallis Simpson, la divorziata americana, ha lasciato, ha abdicato il trono e ha lasciato la Gran Bretagna. E purtroppo qui ci sono delle analogie, per quanto ovviamente Harry non diventerà mai re, è ottavo in linea di successione al trono, quindi è tutta un'altra questione. Oh, ma vedo che ne sai però, vedo che sai però, Silvia. È molto interessante, vedi? Molto più divertente delle storie di casa nostra, di questa politica che ci fa venire il mal di pancia, no? Ah, un ascoltatore scrive: in miniera, i reali in miniera. Oh, Carmelo, ce l'hai ancora? Ce l'abbiamo sotto mano? I nostri amici sette nani, non ce l'abbiamo, andiamo a lavorare. Beh, perché proprio in miniera andavano i sette nani, no, non ce l'abbiamo. Comunque Harry c'ha quei 20 milioni di sterline di patrimonio e quindi tutto sommato credo che a fare l'influencer o non fare l'influencer poco importa. Io mi chiedo perché non possano fare come la Gran Bretagna sia così legata a questa tradizione da, come dire, da non poter fare come le monarchie del nord Europa, no? Dove sono tutti un po' più, Silvia, un po' più sciolti e tranquilli. Però mi pare complessivamente, lo dicevamo ieri, a prescindere, come dire, dalla storia di Harry e Meghan, no? Che il tutto entra in un paese che comunque è in grande fibrillazione, si prepara ad un anno complicato, perché poi l'altra notizia di ieri è il via libera, scontato naturalmente, di fatto alla Brexit, in sostanza, no? alla legge per la Brexit che impone la Brexit, quindi insomma il punto è anche quello, no? Il punto è anche quello, ma credo siano meno in fibrillazione di quello che sono stati negli ultimi tre anni e mezzo. Questo è l'epilogo secondo me più naturale. La maggioranza di Boris Johnson è indice del fatto che i britannici volevano certezza, volevano la Brexit e volevano cominciare a parlare, a pensare ad altro. Quindi credo che in qualche modo, anche se è una botta sia per gli esiti che per l'Unione Europea, adesso con l'uscita almeno dice c'è un po' di chiarezza, c'è un po' di chiarezza. Grazie Silvia Ciorilli Borrelli di Politico Europe per essere stata con noi. Ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa e con Paolo Mieli.